Radio 24 Reportage. Giovani braccia rubate all'agricoltura, di Angelo Miotto. La Giulia? Non so dov'è. Michele Caravita, alto, fisico asciutto, barba e mani salde sul volante del trattore, vive in Salmoggia, a mezz'ora da Bologna. Mi chiama Michele, non so cosa vuole. Ah, pausa! Lasciatemi qualcosa! La sua azienda agricola si chiama La Sega, all'interno della rete di Campi Aperti, un'associazione di agricoltura biologica e di qualità. Michele, una volta, faceva il muratore. Questo ce l'avevo già da in testa da un po', non c'è, cioè, lo volevo fare, nonostante che il muratore mi piaceva anche come mestiere, ecco, ci ho lavorato una volta, mi piaceva. Non è stato da oggi cambio vita, è una cosa che avevo sempre voluto fare e che piano piano ho lavorato per realizzarla. Ecco. Noi abbiamo passato 2 estati, con 3 famiglie, e allora c'erano 7, 8, 10 bambini. Siamo accampati in quel bosco con le tende. Venivano gli amici dalla città, si accampavano 3 giorni, ti davano una mano a smontare il coperto. Poi, vabbè, quando sei entrato in casa, l'avevi costruita tu. Insomma, comunque la cosa adesso è cresciuta tanto. Penso che saremmo 50-60 aziende, un po' di tutta la provincia, anche fuori provincia, qualcuna fuori regione. E quindi anche un lavoro che ti piace, che lo fai abbastanza per scelta. Forse adesso, insomma, non sono tanti quelli che lo fanno perché sono costretti, non possono fare nient'altro, ecco. Inizia a essere faticoso, insomma, guadagnare così troppo poco. I numeri di Eurostat dicono che i giovani che si rivolgono all'imprenditoria agricola sono in calo di quasi il 50% in poco più di 7 anni. Attualmente gli under 35 in agricoltura rappresentano il 6,1% dei 13,7 milioni di agricoltori europei. Ma tra i dati più preoccupanti vi è sicuramente quello italiano. Nel nostro paese, infatti, i giovani agricoltori sono solo il 2,9% del totale. Ci sono problemi che riguardano l'accesso al credito e il costo del suolo stesso prima di iniziare un'attività. Ma la crisi internazionale che ha colpito duro i paesi membri dell'Unione e i meccanismi stessi dell'Europa potrebbe spingere un buon numero degli 8 milioni di disoccupati fra i giovani del vecchio continente verso la coltivazione o l'allevamento. Gianni Tamino, già europarlamentare, è biologo ed esperto di politiche comunitarie sull'agricoltura. Ma sicuramente noi abbiamo assistito nell'ultimo periodo di crisi che uno dei pochi settori dove non c'è stato riduzione reale di occupazione, ma anzi una leggera crescita, è stato il settore agricolo. E va detto che nel settore agricolo hanno più possibilità in questi momenti di crisi di trovare spazio quei giovani che individuano particolari settori meno sottoposti a rischi, tipo per esempio appunto il biologico, l'agricoltura di qualità, l'agricoltura tipica del territorio. In questo senso in Italia abbiamo un mantenimento dei posti di lavoro e anche i giovani stanno cercando di orientarsi in questa direzione, però bisognerebbe aiutarli. Oggi il giovane che vuole andare in agricoltura spesso è laureato, comunque diplomato, comunque con una conoscenza tecnologica elevata, e se sceglie il biologico non è perché vuole romanticamente tornare indietro, vuole usare tutte le conoscenze scientifiche che permettono di fare bene un prodotto di qualità biologico tipico del territorio. Tutto questo richiede aiuti, e uno degli aiuti principali è garantire a prezzo basso il territorio agricolo. Uno dei settori più frequentati dai giovani agricoltori è quello del bio e dell'agricoltura di qualità. Andrea Ferrante è presidente di AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Io non posso pensare che io ho 18 anni, sto su Facebook, sono un pezzo della società e poi a un certo punto faccio agricoltore e ne esco fuori. Voglio rimanere dentro, e per rimanerci dentro devo avere un interesse per questa società. È la mia società, che quella di riferimento, quella che mi sta intorno, è molto interessata a quello che sto facendo io. C'è un capitolo importante della nuova politica agricola comune, la PAC in discussione, dedicato ai giovani. E su questo punto si attendono anche degli emendamenti e riforme dal prossimo dibattito al Parlamento e al Consiglio. La Corte dei Conti europea esprimeva più di un dubbio sul pacchetto normativo anche su quella parte che riguardava i finanziamenti previsti per i giovani imprenditori, chiedendosi se lo sforzo previsto nel primo anno sarebbe stato economicamente coperto anche per i 6 a venire, dal 2015 e fino al 2020. Paolo De Castro è presidente della Commissione Agricoltura all'Europarlamento. Innanzitutto bisogna dire che per quanto riguarda il sostegno ai giovani agricoltori è uno degli aspetti, se vuoi tra virgolette, dei pochi aspetti, ma che il Parlamento Europeo, in particolare la Commissione Agricoltura, che mi onoro di presiedere, hanno salutato con felicità nella proposta di Ciancioros, nella proposta della Commissione. Ciancioros propone un aiuto specifico per i giovani agricoltori anche nel primo pilastro, quindi oggi i giovani agricoltori, sulla base della proposta della Commissione, che tra l'altro il Parlamento Europeo noi accelereremo ulteriormente, noi espanderemo ulteriormente come proposte emendative, ne ho viste diverse che vanno nella direzione voluta dal SEGA, dall'Organizzazione Europea dei Giovani Agricoltori, e cioè quella di dare un aiuto agli agricoltori sotto i 40 anni proprio per aumentare il livello di sostegno diretto ai giovani agricoltori, invogliare quindi i giovani a rimanere in azienda e a poter investire in agricoltura. Daniela Giarin, 26 anni, imprenditrice agricola, settore apicoltura. Oltre al suo impegno nell'associazione di categoria, in questo caso nella CIA, ci racconta cos'è l'Erasmus per i giovani imprenditori agricoli. Un giovane appena insediato in un'azienda da non più di 2 anni può partecipare e lavorare in un'azienda straniera della Comunità Europea del suo settore, quindi nel mio caso dell'apicoltura, e imparare nuove tecniche utili proprio per il suo lavoro. È molto interessante perché l'Erasmus può durare da 1 mese a 6 mesi e possono essere gestiti nell'arco dell'anno, quindi un imprenditore può partire 1 mese, può tornare a casa a gestire le cose nella sua azienda, partire di nuovo, può gestirsene un po' come vuole, possono anche non essere continuativi. Come funziona lo scambio di esperienze? Ancora Daniela Giarin. Funziona così, c'è un sito internet, un portale dove ci si può iscrivere, mettere all'interno il proprio curriculum e le preferenze a cui si vuole appunto partecipare. Nel mio caso ho messo settore primario, settore apicoltura, e si può scegliere anche il paese in cui si vuole fare l'Erasmus e i mesi in cui si è disponibili per fare l'Erasmus. Tutto all'interno di questo portale ci sono poi gli imprenditori ospitanti che mettono anche loro all'interno il proprio curriculum e vanno alla ricerca di questi nuovi imprenditori che vogliono appunto imparare nuove cose. Torniamo ai grattacapi economici dei giovani imprenditori agricoli. Il primo è quello dell'accesso al credito. Una stima realizzata sotto un pergolato, veranda incantevole del Tortonese, con un giovane imprenditore, spostava l'accesso all'attività su un'asticella di 200.000 euro di soglia d'ingresso. Poi ci sono i fondi regionali, gli aiuti diretti europei, ma il dato è sconfortante per la mancanza di una linea di credito preferenziale negli Stati membri, mentre il ministro dell'Agricoltura Mario Catania, in Italia, ha avanzato un disegno di legge proprio sul tema del suolo. Ancora Gianni Tamino, biologo ed ex parlamentare europeo. Salvaguardare il territorio agricolo e impedire queste speculazioni è l'unica strada per garantire che queste aree rimangano agricole, cosa fondamentale anche dal punto di vista ambientale, e siano accessibili ai giovani. Per esempio, molte regioni e lo Stato stesso stanno dismettendo o propongono di vendere pezzi di territorio. Molti di questi sono anche già agricoli o potrebbero esserlo. La cosa importante sarebbe vincolare all'uso agricolo per almeno 50 anni quel territorio, favorire l'accesso all'acquisto, diciamo, di cooperative di giovani, purché si impegnino a rispettare determinati criteri di difesa dell'ambiente, del territorio, di produzione di qualità. Paolo De Castro è presidente della Commissione Agricoltura all'Europarlamento. Non c'è dubbio che il valore fondiario è largamente sganciato nel nostro paese da quelli che sono la redditività che l'agricoltura può dare su quella terra. Quindi c'è da lavorare, c'è su questo alcune idee interessanti che molti paesi europei stanno portando avanti, penso alla Germania ma anche alla Francia, per salvaguardare il suolo agricolo produttivo. Anche il ministro Catania recentemente ha avviato un dibattito in questo senso, presentando un disegno di legge interessante come governo proprio su questo tema della salvaguardia del suolo, il suolo risorsa preziosa in epoca di food security, di necessità di assicurare una disponibilità di cibo alle generazioni future. Noi abbiamo bisogno di salvaguardare il suolo, non possiamo rischiare di ridurre ulteriormente la disponibilità della risorsa scarsa che è il suolo, la prima risorsa dell'agricoltura, direi. Dopo il suolo c'è subito da occuparsi dell'acqua naturalmente, ma insomma le risorse sono scarse, la domanda cresce a un ritmo superiore di quanto cresca l'offerta, abbiamo assolutamente bisogno di mettere mano a questo tema.